Essere e benessere di Nicoletta Carbone. E la bobina continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola. E noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può suonare, non si può sbagliare. Perché? Perché ci vuole orecchio. Anche in estate ci vuole orecchio. Dove pensate di portare le vostre? Al mare, in montagna o resteranno a casa? Non importa. L'importante è che stiano bene, perché a volte all'orecchio basta davvero poco per irritarsi, per andare in crisi, e sono dolori. Un bagno in mare, in piscina, un cambio di altitudine, una serata in discoteca con la musica a tutto volume. Ed ecco che arriva il conto: dolore, senso di ovattamento, fischi e anche quella spiacevole sensazione di sentirci un po' meno. Tutto questo però naturalmente noi vogliamo evitarlo o limitarlo sensibilmente. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo restare in compagnia e chiamare l'800 24 00 24, insomma restare a essere benessere, che è un programma che fa star bene. In studio con me ho il dottor Alberto Dragonetti, primario dell'unità operativa complessa di otorino laringoiatria all'ospedale Niguarda di Milano. Wow, ce l'ho fatta! Brava, buongiorno! Allora, dottore, noi seguiremo le nostre orecchie in vacanza, per chi va in vacanza. Naturalmente ci occuperemo anche di quelle che le orecchie che rimangono a casa, e sono tante. Ma mare, montagna, viaggi in aereo, immersioni. Ma prima di partire mi faccia capire se ci sono delle orecchie più a rischio di altre, perché magari i diretti interessati non lo sanno e quindi rischiano un po'. Esattamente. Come sempre io parto dalla mia esperienza, da quello che mi capita di vedere nell'ambulatorio, e sono parecchie le persone che hanno problemi di orecchio durante il periodo estivo. Ovviamente tutti quelli che hanno già un'otite cronica, cioè una perforazione del timpano, devono stare molto attenti, hanno delle limitazioni. Sì. Ovviamente. E questi però lo sanno già. Ci sono quelli invece che hanno dei problemi legati a un'eccessiva produzione di cerume, problemi legati ad invece forme dermatologiche, sì, e problemi anche di tipo anatomico, cioè ci sono delle orecchie particolarmente strette. Sì. E quindi queste possono favorire alcuni disturbi durante questi periodi, perché l'acqua, la sabbia, le immersioni, sono eccetera, un periodo difficile, quando le portiamo in giro, possono dare problemi. E l'altra cosa che secondo me non è trascurabile, perché può avere riflessi sull'orecchio, e questo vale soprattutto per chi fa il sub, nella mia esperienza mi capita spesso di vedere queste problematiche, persone che hanno problemi al naso o di sinusite, che di conseguenza si riflettono anche sull'orecchio. Quindi sicuramente anche queste persone che non hanno un diretto interessamento dell'orecchio devono stare attente. Quindi noi prendiamo naso e orecchio, esattamente, che vanno sempre che sono in coppia, collegati. Esatto. Allora, restate con noi se soffrite di otiti frequenti, se avete un naso, se avete un paio di orecchie, perché abbiamo visto che sono in comunicazione, uno influenza l'altro. Se ad esempio quando salite in aereo al momento dell'atterraggio vi si tappano le orecchie, avvertite dolore. Se vi disturba un fastidioso eczema, il prurito, il classico prurito nell'orecchio che sembra riattivarsi, accendersi proprio col contatto dell'acqua, che ci fa così in qualche modo rovinare il piacere di un tuffo. E a proposito di tuffi, in mare, in linea con noi ci ha raggiunto Nicola Brischigiaro, pluricampione mondiale di immersione in apnea. Guardate un po' chi vi porto. Ciao Nicola! Buongiorno a tutti voi! E ideatore anche di una campagna sull'educazione acquatica che ha il patrocinio del Ministero della Salute. Nicola, allora, ci racconti di questa campagna? Godetevi il mare, ma in tutta sicurezza. Questo è il messaggio. Beh, questo sicuramente, è estate, fa caldo, il sole, l'acqua invita ad un bagno ristoratore, ma è ovvio che ci vuole la prudenza, e chi sono coloro che devono sovrintendere alla sicurezza, per esempio, dei bambini, in primis i genitori ovviamente. Quindi questa campagna desidera sensibilizzare i genitori attraverso mirate metodologie di sicurezza. Senti Nicola, voi avete fatto anche un decalogo che si può scaricare dal sito www.educazioneacquatica.it, ce lo racconti? Ma sì, vabbè, innanzitutto, come dicevo prima, la sicurezza, il genitore ha un ruolo prioritario. Bisogna rispettare un po' i tempi dei bambini, se parliamo dei bambini ovviamente, bisogna fare in modo che i bambini siano sempre sorvegliati, le classiche regole. Scusami Nicola, posso chiederti, prego, a proposito dei bambini, i bambini che non sanno ancora nuotare, tu suggerisci il salvagente, la ciambella o i braccialini? Bracciali, braccioli. Se sono piccoli, parlo di un anno e mezzo, così preferisco assolutamente in braccio al genitore senza nessun ausilio galleggiante. Dai 17 mesi, 18 mesi in avanti, se il bambino è molto dinamico, allora si possono utilizzare magari dei bracciolini, ma solo per pochi minuti, giusto per farlo sperimentare. Ecco, il bracciolino va meglio, è più sicuro, vero, della ciambella? Non amo la ciambella a prescindere, insomma, quindi diciamo che a livello educativo certamente il bracciolo permette al bambino di fare sperimentare l'ambiente acquatico in modo più totale, sempre sotto sorveglianza ovviamente. Naturalmente, senti, saliamo un pochino di età e voglio approfittare della tua competenza per dare dei consigli alle persone che non si limitano a stare a pelo dell'acqua ma vogliono scendere un pochino, non necessariamente molto, ma anche un paio di metri. Il tallone d'Achille, lo anticipava il dottor Dragonetti, di chi fa apnea, di chi fa immersione, è sicuramente l'orecchio. I tuoi consigli, Nicola, sono preziosi e li commentiamo poi anche naturalmente col dottor Dragonetti, che poi le orecchie che non compensano in modo corretto se li trova lui in ambulatorio. Quindi alleggeriamo un po' il lavoro del dottor Dragonetti. Nicola. Certo, ci proverò, insomma, umilmente. È ovvio che, insomma, lo snorkeling e l'apnea sono discipline affascinanti. Milioni di italiani si trovano a immergersi per ammirare i fondali marini. Però bisogna sempre fare molta attenzione, soprattutto perché la pressione idrostatica, quella che aumenta man mano che si scende in profondità, va a introflettere la membrana timpanica e questo può provocare ovviamente del dolore. Bisogna fare attenzione, sempre essere seguiti a vista da qualcuno e in caso si dovesse avvertire questo fastidio all'orecchio, bisogna mettere in atto delle manovre di compensazione, che però, insomma, sono un po' più complicate da spiegare telefonicamente. Dottor Dragonetti, questo è importante, quindi diciamo ai nostri ascoltatori, se vi immergete, attenzione, fatelo con cautela e fatevi insegnare queste manovre, perché sennò poi si finisce con male all'orecchio e quindi ci si rovina la vacanza e soprattutto si deve vedere il medico, che è una persona che almeno in vacanza gradiremo non incontrare. Sì, anche perché non è semplice a volte trovarlo in vacanza. No, queste sono le classiche otiti barotraumatiche cosiddette, no? Come giustamente è stato spiegato prima, l'introflessione del timpano, se non ben compensata, può generare una microinfiammazione e poi trasformarsi in un'otite molto dolorosa. Ecco, quindi, anzi, a quel punto la compensazione è peggio. Certo che è importante tenere compensato l'orecchio, perché quando ci si immerge, anche quando si fanno i tuffi, se posso anticipare un sempre sulla base dell'esperienza, anche quando si fanno i tuffi coi piedi o con la testa, magari se si va sotto più di un metro, sì, e mezzo, iniziare anche a fare una piccola manovra di compensazione tappandosi il naso. Come l'altra cosa, se è possibile, perché io proprio l'ho visto, anzi era in vacanza con me, un mio amico che si è tuffato dalla barca, si è tuffato di faccia e si è perforato il timpano, quindi anche questo trauma, questo impatto fra l'orecchio e l'acqua a volte può causare questi problemi. Quindi chiaramente liberi tutti, però ottimi sport, ma con cautela. Però con cautela. E nella vostra campagna, Nicola, suggerite anche di fare attenzione a non immergersi subito dopo mangiato, di rispettare un po' gli orari della digestione. Sì, quello assolutamente è una regola che in teoria dovrebbero ormai sapere tutti. Se posso permettermi, per quanto riguarda la compensazione, ha ragione il dottore, bisogna sempre compensare prima che sopraggiunga il dolore, ma la cosa importante è che siamo d'estate, ci sono meno raffreddori, ci sono meno patologie influenzali e quindi insomma d'estate solitamente insomma l'orecchio dovrebbe essere un po' più predisposto ad affrontare l'ambiente marino con più disinvoltura e tranquillità, insomma, ecco. E l'alimentazione è importante sia per i bambini che per gli adulti che per gli anziani, e bisogna sempre rispettare le tappe digestive. Certo, ovvio, per alcuni può essere anche soggettivo, ma le due ore classiche dopo un pasto mi sono sembrano il minimo. Assolutamente, insomma, ecco. Quelle che ci facevano rispettare le nostre mamme. Esatto. Adesso invece vedo mamme che sono molto più elastiche, no? Si dice se il bambino va subito in acqua, la digestione non è ancora iniziata e non ci sono problemi. Ma guarda Nicoletto, se posso parlare, dipende anche molto dalla temperatura dell'acqua. Esatto. La temperatura dell'acqua a 32 gradi, non esiste lo shock termico, ossia la netta differenza di temperatura tra il corpo umano e l'acqua. È ovvio quindi che le congestioni sono assolutamente lontane dal venire, però l'acqua del mare solitamente, parliamo in questo periodo, 27-28 gradi al massimo, 29 magari in qualche caletta se proprio fa tanto caldo, quindi è meglio essere un po' più prudenti, ecco. Allora, io ti ringrazio Nicola per essere stato con noi. Ricordo il sito dove potete scaricare o leggere il decalogo, www.educazioneacquatica.it. Grazie a Nicola Brischigiaro per essere stato con noi. Buona estate anche a te, Nicola. Grazie, buona estate a tutti voi, buon viaggio e prudenza in mare, in acqua, sempre essere sorvegliati i bambini e siate prudenti. Abbronzatissima sotto i raggi del sole. È un classico, scottarsi le orecchie, quindi massima attenzione, non si scottano solamente le orecchie a sventola, ma le orecchie anche di più piccole, le orecchie di chi le porta ad esempio scoperte. Ma noi ci facciamo aiutare dal professor Antonino Di Pietro, che è in linea con noi, direttore del servizio di dermatologia dell'ospedale di Inzago. Buongiorno professore. Buongiorno. Le orecchie si scottano perché noi spesso dimentichiamo di mettere la crema, invece hanno una pellicina delicatissima. Certo, hanno una pelle molto sottile, soprattutto anche sono molto rade le ghiandole sudoripare, le ghiandole sebacee, quindi è una parte del nostro corpo estremamente delicata e dove i raggi solari riescono a penetrare in grande quantità e anche in maniera più massiccia perché sono molto esposte. E quindi prendono tanta luce come se fossero dei radar. Attenzione quindi, ma attenzione anche a volte a delle cattive abitudini, come quello di spruzzarsi del profumo sul viso e a una certa distanza questa nebulizzazione va anche sulla pelle delle orecchie. E allora mentre ci si sciacqua a volte il viso per togliere tracce di profumo prima di esporsi al sole, magari non lo si fa con le orecchie, questo profumo rimangono macchiate. Rimane sulla pelle e questo può più facilmente far partire anche delle fotodermatiti dovute a presenza di o tracce di profumo sulla pelle che interagisce poi col sole dando facilmente questi problemi anche estremamente fastidiosi, perché le orecchie si scottano, poi si, la pelle brucia, si spellano, fastidio, si spellano, quindi bisogna stare molto molto attenti. Professore, entriamo un po' dentro l'orecchio, il dottor Dragonetti l'aveva anticipato, perché a volte proprio a darci problema, fastidio, è il condotto, perché lì avvertiamo una sorta di prurito, ci sono degli eczemi, non sappiamo come trattarle, soprattutto quando vengono a contatto con l'acqua si avverte proprio un bruciore, il problema si riacutizza. Sì, si riacutizza anche perché una delle patologie più frequenti, tipo dermatologico, che interessano questa parte qui, il condotto uditivo e anche parte del padiglione, è la dermatite seborroica, che dà fastidio piuttosto importante, chi ne ha affetto lo riconosce subito, un po' di umidità dopo aver fatto il bagno non asciugando bene le orecchie può riacutizzarsi questa dermatite. Cosa fare in questi casi? Asciugare bene con acqua dolce, quindi cioè risciacquare dall'acqua di mare, quindi con acqua dolce, poi asciugare molto delicatamente questa parte. Più recentemente si è visto che creme contenenti aluchina, che è un composto del tutto naturale a base di allume, possono dare degli ottimi risultati in alternativa a creme cortisoniche che fino a poco tempo fa erano consigliate. Più utilizzate. Abbiamo Maurizio che ci chiama da Chieti e poi Elena da Mantova. Maurizio, buongiorno, 800 24 00 24. Sì, buongiorno a tutti. Io, come tanti altri, ho un problema ad un orecchio. In poche parole, proprio a causa del frequente prurito che di cui soffro, sono costretto a in qualche modo per alleviare, a pulirlo in maniera frequente, spesso. E a causa di questo, visto che abito in Abruzzo, quindi in riva al mare, anche quando praticamente appunto mi tuffo in acqua sono costretto praticamente appunto a darmi come una forma di sollievo attraverso, e a causa di questo ho dei frequentissimi problemi proprio di otite. Il problema è che sì. Se nel caso in cui io non provo poi dopo a ripulirmi in poche parole l'orecchio, ho notato che ho un eccessivo proprio di ciruma. Sì. Esatto, quindi esatto. Dottor Dragonetti, la storia che ci racconta il nostro ascoltatore è abbastanza frequente, perché abbiamo questo con il cerume un rapporto molto strano, no? In realtà il cerume c'è perché ha una sua funzione, esatto. In qualche modo ci protegge, ma noi ingaggiamo una guerra e poi alla fine ci perdiamo. Ma il problema dell'ascoltatore è molto frequente e secondo me è anche autosostenuto. Certo. Perché, come lei diceva, il cerume è una protezione per l'orecchio, no? Perché forma una specie di patina protettiva, in quanto, come diceva anche prima il professor Di Pietro, il condotto è ricoperto da uno strato sottilissimo di pelle molto delicata, quindi il cerume fa da protezione. Il cerume a volte dà dei disturbi del tipo prurito, no? Una sensazione anche di ronzio. E quindi cosa succede? Che tutti, ma dico tutti, normalmente utilizzano il famoso cotton fioc, sì, dei bastoncini per asportarlo. Al di là della pericolosità della manovra, in realtà a volte noi inseminiamo germi, produciamo microabrasioni. Io vedo dei condotti che sono pulitissimi, non c'è un filo di cerume, ma hanno una pelle screpolata. Sì. Questo perché è l'abrasione provocata dal bastoncino o dall'asciugamano, eccetera, che tra l'altro autoalimenta il prurito, perché uno ha una sensazione piacevole, ma poi dopo il prurito aumenta ancora una volta e quindi è un gatto che si morde. Quindi, professor Di Pietro, lavarsi le orecchie con dito e sapone, asciugare bene, esatto. Giusto? Sì, asciugare bene. Mettere la crema a base di aluchina che si è rivelata molto efficace. Questo nella maggior parte dei casi può dare degli ottimi risultati, perché toglie il processo infiammatorio che poi scatena anche il prurito, si evita il grattamento e si interrompe quel circolo vizioso di cui parlava prima il nostro ascoltatore. Professor Di Pietro, grazie. Nulla, anzi. Buona giornata. Un piacere stare con voi. Professor Di Pietro, grazie. Elena, buongiorno da Mantova. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Mi fa arrossire le orecchie. Sì, io telefonavo per un problema che ha mio figlio. Quando viaggiamo in aereo, in fase di decollo o di atterraggio, lamenta sempre mal d'orecchie, e quindi chiedevo a lei o anche per lei come comportarsi in questo caso. Si può masticare qualche cosa, giusto? Esatto. Voi suggerite solitamente masticare un chewing gum o una caramella, deglutire, bere qualche sorsetto d'acqua, ma se il dolore diventa forte, dottor Dragonetti, io passo la parola a lei. Sì, perché... più che il dolore che diventa forte è se il dolore si mantiene anche dopo questa situazione. Questo diventa un problema. Allora, premesso che chi ha questi disturbi durante la fase di decollo, di atterraggio, ovviamente deve fare un controllo dallo specialista, che consiste nel guardare il naso, come dicevamo prima, guardare le orecchie e in alcuni casi anche fare degli esami funzionali, in modo particolare l'esame impedenzometrico, perché è un esame che misura la flessibilità, l'elasticità della membrana timpanica. Quindi, perché lei mi sta dicendo, e quindi potrebbero avere dei problemi. Ecco, lei mi sta dicendo che avere dolore all'atterraggio, al decollo, dolori che rimangono, quindi un dolore vuol dire proprio un male, ecco, che rimane dopo che noi siamo scesi dall'aereo, ecco, non è normale, no. Non è fisiologico, mentre è fisiologico il fatto che l'orecchio si tappi. Sì, ecco. Quello si tappa. Se avete male, e questo deve essere un campanello che vi un dice campanello andate d'allarme. A fare degli esami, perché esatto. Potrebbe essere banalmente un tappo di cerume. Potrebbe essere un tappo di cerume oppure avere delle situazioni patologiche correlate che sono anche misconosciute. Ricordiamo che però la situazione si può tenere sotto controllo prima che si avverta il dolore con dei semplici trucchetti che sono deglutire, masticare. Esattamente, perché poi molti di queste persone non hanno nulla anche da un punto di vista strumentale, per cui si consiglia di masticare durante la fase di decollo e di atterraggio, tenendo conto che oggi gli aerei sono ben pressurizzati, quindi tutto sommato questi problemi devono essere sempre più relativi. Non è possibile! Ci deve essere un errore! Guardate un po' quelli... sventole. Quelle che? Oh, le orecchie! Oh, queste qui, come sono buffe! Sono io, nonna Cappuccetto Rosso, sono venuta a trovarti! Ciao, nonnina, ti ho portato un piccolo regalo. Oh, santo cielo, che orecchie grandi hai, nonnina, io non me ne ero mai accorta, sai. Ah, c'è una spiegazione, mia cara, servono per sentirti meglio quando mi parli. Orecchie, portiamole in vacanza con noi, ma soprattutto, anche se non ci muoviamo, regaliamole un po' di vacanze, inteso come attenzioni. Dottor Dragonetti, lei ci deve aiutare a rispondere a molti ascoltatori che mi stanno chiedendo al 349-238-6666 notizie sui coni. Ci scrive ad esempio l'ultimo, ma gli altri sono tutti sulla stessa onda. Volevo sapere se i coni sono pericolosi. So che molti si trovano bene, ma ho sentito dire che possono rovinare l'orecchio. È vero? E poi coni sì, coni no. Coni sì o no? E quali nel caso? No. No, categorico. No, categorico. Perché? Come sempre, per quello che è la mia esperienza ambulatoriale. Mi è capitato di vedere persone che hanno avuto, siccome si devono accendere questi coni, no? Hanno avuto, di che cosa sono fatti? Sono fatti di cera. Di cera, quindi attraverso un sistema di calore sciolgono il famoso cerume. Ora, chiaro che se uno ha un tappo di cerume che chiude completamente, possono essere sicuramente efficaci. Il problema è che il paziente non si può autovedere e quindi noi non sappiamo né la consistenza né l'espansione di questo tappo di cerume, per cui mi è successo di vedere due fatti abbastanza importanti. Uno, vabbè, una bruciatura del condotto, e un altro caso che il cerume si era sciolto ed era andato tutto contro il timpano, quindi c'erano tutte queste croste ceruminose attaccate al timpano che davano un discreto fastidio. Io quindi purtroppo lei di fronte a questa cosa dico sempre meglio rivolgersi allo specialista, ma non lo faccio per difendere la categoria, ma per difendere l'orecchio. Andiamo ad Antonella, che ci chiama da Ferrara. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Lei usa i coni? No, i coni no, però io per problemi che il mio compagno russa ho usato per molto molto tempo i tappi, quelli in silicone, e ho smesso perché mi sembrava che l'orecchio fosse diventato più sensibile, di sentirci quasi anche troppo. È possibile che creino dei problemi anche di questo tipo? Dottor Dragonetti. È possibile, perché i tappi possono deformare l'ingresso del condotto ampliandolo. E quindi il condotto è fatto in maniera tale da convogliare i suoni in maniera armonica verso il timpano. per cui se infatti il condotto non è dritto ma ha delle angolature, giusto perché la natura che è più intelligente di noi fa le cose con un certo senso, un certo ordine. Quindi se noi abbiamo un condotto all'inizio molto ampio, i suoni possono essere convogliati con più intensità, quindi può essere giustificato. Sì. Allora, io vi suggerirei una cosa, un regalo che potremmo fare alle nostre orecchie, regalare un po' di silenzio. Il silenzio deve essere per le orecchie quel che è la notte per gli occhi. Pascal Chignard. Silenzio che non significa mancanza assoluta di rumore. Il silenzio di cui parlo oggi è quell'attenzione, quella predisposizione d'animo che ci permette di cogliere suoni e rumori meno usuali. Per chi come me vive in una città, questa operazione richiede un certo impegno, ma può essere molto produttiva la ricerca. Nelle città, tra l'altro, il traffico sta diminuendo e se frequentate un parco al mattino, come faccio io, riscoprirete i suoni della natura, anche se un po' soffocata dalle voci della metropoli. Cercate e troverete. Per chi invece va in vacanza, la ricerca sarà più facile, ma non dimenticatevene, mi raccomando. Ci sono infatti delle ricerche che dimostrano che i suoni della natura hanno effetti terapeutici. La natura è, possiamo dire, un po' la madre della musicoterapia. In linea con noi abbiamo la dottoressa Giovanna Luini, medica responsabile della comunicazione scientifica IEO, che ci racconta perché. Buongiorno dottoressa Luini. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Sì, la natura è un prezioso aiuto perché a quanto pare alcuni suoni della natura stimolano onde cerebrali specifiche che sono quelle della meditazione oppure del rilassamento profondo. Il cervello produce onde cerebrali varie, esistono anche le alfa e le teta, che sono onde che si attivano quando una persona è tanto rilassata, quando sta per dormire ma non dorme, allora crea, immagina e il cervello si nutre con queste onde. Ebbene, ci sono suoni della natura che sono suoni usuali, per esempio alcuni suoni legati all'acqua, che stimolano la produzione di queste onde cerebrali. Quindi lasciamo che l'orchestra della natura ci culli. Assolutamente sì, lo auguro a tutti voi. Buone vacanze e buoni suoni. Anche a voi, arrivederci. Grazie alla dottoressa Giovanna Luini, responsabile della comunicazione IEO. Dottor Dragonetti, da 10 anni lavoro in un call center con la cuffia e tanti rumori di fondo. Mi dà un consiglio per non rovinare l'udito? Ci scrive Andrea. Innanzitutto questo è difficile perché adesso sì. Le cuffie le porta anche lei, ma noi che le portiamo tanto, chi lavora in un call center, cosa fa? Innanzitutto moderare il volume di ingresso. Noi sappiamo che le lesioni dell'udito avvengono, lesioni traumatiche da rumore, quando l'orecchio sottoposto ad uno stress uditivo per 8 ore al giorno a 80 decibel. Ma noi come facciamo ad accorgerci che è troppo alto? Ci sono i fonometri, per esempio. Quindi dobbiamo ci sono i tecnici del suono che dovrebbero regolare l'ingresso in cuffia sui 30-40 decibel, secondo me, ed è sufficiente, come penso che sia in questo caso. Ma non... Quindi un call center oggettivamente... Siamo protetti. Diverso invece è il caso delle persone che non hanno tecnici del suono a disposizione, ma che usano la musica, le cuffiette per la musica. Casa, e qua che la volevo portare. Esatto. No, mi vuole portare uno che piace ascoltare la musica a intensità elevata, quindi mi sto contraddicendo. Certo che io... Lei predica bene e razzola male. Assolutamente sì, però purtroppo io posso ascoltare la musica a quel volume per un massimo di 3-4 minuti, poi interviene mia moglie. Ecco. Periodo limitato non succede niente. Chiaramente non bisogna poi porgere l'orecchio troppo vicino alle casse e non bisogna sentire la musica con gli auricolari a un volume troppo elevato per una quantità di tempo che superi la mezz'ora. Abbiamo Massimo da Roma. Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti, buongiorno da tutti quanti. Senta, gentilmente vorrei sapere, ho un problema d'inverno. È successo che ho avuto un grosso raffreddore e a forza di soffiarsi il naso? Mi sono andati fuori pressioni le orecchie. Praticamente ogni volta che deglutisco, bevo, a sbadiglio, vado fuori proprio con le pressioni, cioè mi si stappano troppo. Allora devo tirare praticamente all'indietro con l'aria, chiudendomi il naso. Quindi, e quindi adesso ho preso una puntetta. Senta Massimo, la sentiamo malissimo. A proposito, però, il dottor Dragonetti dice che ha capito. È preziosissimo questo intervento, perché mi consente di dire una cosa che invece nel sentire comune, come ha descritto il paziente, sembra essere il rimedio. Cioè soffiare il naso tappandosi il naso. Questo è sbagliatissimo. Sbagliatissimo. Sbagliatissimo. Ma lui non ci lascia fare niente, no. Non ci lascia sentire bisogna, la musica, come dico pulire io, le orecchie, soffiare il naso tappandosi. No, cioè, potete farlo, però dopodiché poi ce la vediamo noi. Allora, come contrariamente la gente pensa, quando starnutisce o quando si soffia il naso perché è raffreddata, toppa il naso. Facendo così noi mettiamo aria nelle orecchie, ma un'aria viziata. Se possiamo dirlo. Quindi, quando si soffia il naso, a mano aperta, col fazzoletto ovviamente, certo, e cercare di espellere tutto dalla parte, dal davanti o dalla bocca. Liberatevi. E liberiamoci. Dai, è libertà. Esattamente. In effetti si dice anche che anche una raffica di starnuti aiuta proprio a liberare, a scaricare, no? E quindi e si a naso e bocca aperta. A naso e bocca aperta e si soffia poi una narice e poi l'altra? Sì, sì, sì. Dai, ma che cosa si può fare? Abbiamo anche ricapitolato e ripassato le regole per soffiarci il naso, che sembra la cosa più semplice, ma evidentemente non la impariamo mai bene. Finalmente è arrivato Enrico Pagliarini, voce del nostro GR, conduttore di 2024. Enrico, dico finalmente. Buongiorno, buongiorno. Perché io avevo pensato, Enrico Pagliarini, quando parlavamo dei suoni della natura, che sono così terapeutici, e abbiamo pensato naturalmente alle persone che vanno in vacanza, ma c'è chi come noi in vacanza non va e sta qui. Ma l'orchestra della natura può arrivare anche a casa. Sì, ta, certo. Ta, ta, ta. Allora, che cosa ha preparato per noi? Dunque, questa mattina ho comprato un file MP3 che adesso sentiamo un pezzettino. Ma per me l'hai comprato? Sì, perché questa notte, se tu vuoi addormentarti con gli uccellini in sottofondo, un po' di acqua che scorre. Allora, su internet si trova. Mi sta facendo un po' la corte, si trova di Dragonetti. Tutto. Se tu però non ti accontenti. Ne avrà le sue ragioni. Se tu non ti accontenti di solo gli uccellini, sì, l'acqua, eccetera, eccetera. Ecco, abbiamo anche un po' di relaxing music per addormentarsi in tranquillità. Ambient. Si trova di tutto, possibilmente se uno scrive in inglese, cercando con la lingua inglese, tipo relaxing music, relaxing sounds, cose del genere, si trovano mille compact disc, file MP3 che si possono scaricare, tutti questi costano 2,99 euro, insomma, niente di grave. Il costo di un gelato, poi uno se lo tiene per tutta la vita. Non so, allora io mi addormento benissimo di notte, anche di giorno, qualsiasi ora di però se uno ha necessità di sentire la natura, gli uccellini, eccetera. Un consiglio, visto che non abbiamo tanto tempo, tutti i giorni noi qui alla radio utilizziamo le cuffie per lavorare. Allora, c'è una novità tecnologica. Allora, in realtà per gli addetti ai lavori non è una novità, però negli ultimi anni vedo che i prezzi un po' si stanno abbassando, la tecnologia sta migliorando. Cuffie a cancellazione di rumore. Se uno abita in zone, adesso non è che sono proprio comodo, non è che è proprio comodo dormire con le cuffie in testa, sono state pensate per gli aeroplani. Quando uno sta in aeroplano per tante ore, può utilizzare queste cuffie che hanno un piccolo microfono, registrano il suono dell'aeroplano e fanno un'onda contraria cancellando il suono del rumore. Sostanzialmente funzionano così. Però valgono anche per altre situazioni. Certo. Quindi uno può comprarsi queste cuffie a cancellazione di rumore, sempre su internet. Queste si trovano anche in negozi. Anche in negozi. Fantastico. Costano un pochettino. Ma noi perché dobbiamo andare in vacanza? È il cosiddetto mascheramento. Il mascheramento. Potrebbe essere. Grazie. Uno quindi compra la cuffia a cancellazione di rumore, magari, certo, insomma, se sei in aereo, maggior ragione, però anche in un luogo che è rumoroso. E poi si ascolta gli uccellini il, in che silenzio. Che uomo questo Enrico Pagliarini. Meno male che sei arrivato, un po' in ritardo, ma sei arrivato. Sono, adesso torno con, adesso lavoro, torni a lavorare. Perché questa mattina mi devo occupare di Google e l'antitrust europeo. Quindi, una situazione un po' complicata. Grazie Enrico. Buongiorno. Grazie. Au revoir. Allora, e a proposito di suoni, a volte, e di silenzio, a volte è proprio quando siamo in silenzio che il nostro orecchio comincia a suonare. Fischia, ronza, imita il ruscello. Che cosa sta succedendo? In linea con noi abbiamo il professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audio, vestibologia e rieducazione vestibolare all'ospedale Ramazzini di Carpi. Buongiorno. Buongiorno. Professore, questa è musica per le sue orecchie. Acufeni si manifestano soprattutto quando siamo in silenzio, ma questi suoni così fastidiosi vengono in parte annullati da altri suoni. Suono scaccia suono, era il chiodo, ma lo adattiamo. Ma sì, diciamo che ci sono due modalità diverse. Una è quella classica, cioè mascheri, un suono copre un altro suono. Però questo è un meccanismo un po', come dire, grezzo. Adesso diciamo le novità nella ricerca consentono invece di usare dei suoni che antagonizzano, cioè fanno in modo che il cervello preferisca ascoltare quei suoni rispetto al rumore che si è generato casualmente o patologicamente, appunto, sotto forma di rumore di fondo. E questa è una novità, però in questi casi il problema diventa che non si può dare un'indicazione generica, ma ogni persona avrà il suo meccanismo di antagonismo preferito, quindi la musica che gli consentirà di sentire meno il rumore va selezionata soggetto per soggetto. Professore, di orecchie ne abbiamo due, a volte l'acufeno lo avvertiamo solamente da una parte, a volte da entrambe. Che differenze ci sono in questo caso? In linea di massima, quando c'è un acufene, diciamo che è come se ci fosse un dolore a una spalla, è un segnale d'allarme, non è specifico di nessuna patologia. Quando è in un orecchio solo è un po' più preoccupante perché attira l'attenzione a una specifica zona. Quando è in tutte e due, diciamo che generalmente è meno preoccupante, poi ovviamente sono sfumature caso per caso, però è così. Di solito significa che quell'orecchio che emette il suono ha qualche problema che va identificato e cercato di correggere. Grazie al professor Guidetti per essere stato con noi. Ricordo che nell'archivio di Essere Benessere trovate delle interviste, degli approfondimenti che abbiamo fatto proprio insieme al professor Guidetti per trattare il tema acufeni. Grazie professore. Grazie a lei, grazie a tutti. Buongiorno. C'è un rumore. Il nostro orecchio ci avverte che un nemico si sta avvicinando. Fastidioso, pungente. Ma in linea con noi abbiamo il dottor Marco Temporin, medico, nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva presso il CMSR Veneto Medica di Altavilla Vicentina, che con i suoi rimedi riesce a salvarci dalle pizzicature, dalle punture di zanzare. Buongiorno, dottor Temporin. Buongiorno Nicoletta, un saluto a tutti. Iniziamo dal... iniziamo da chi non farci pungere. Esatto. Questa è una cosa molto importante perché chi è soggetto spesso alle punture di insetto vorrebbe prevenire questo problema. E esiste un rimedio chiamato l'edumpalustre, il quale ha la capacità di alterare l'odore del nostro sudore e di conseguenza renderlo sgradevole alle zanzare. Ovviamente solamente delle zanzare. Questo rimedio va assunto in granuli, sì. Deve essere assunto già qualche giorno prima e poi si può continuare ad assumere per i giorni in cui si è sotto tiro delle zanzare. E quindi lo assumiamo qualche giorno prima e poi possiamo anche assumerlo per 15 giorni per la durata delle vacanze? Sì. Poi ovviamente il rimedio, essendo un rimedio omeopatico, è in varie diluizioni e questo va poi concordato con il proprio medico curante qual è la diluizione più adeguata per il paziente. E comunque sono dei granulini molto semplici, possono essere assunti con continuità per lungo tempo. Anche i bambini? Anche i bambini. Fantastico. Procediamo. Se invece la zanzara, non abbiamo preso l'edum perché non abbiamo sentito essere benessere, e la zanzara ci ha pizzicato... Allora, se la zanzara ci ha pizzicato ed è solo un piccolo pizzichio, allora noi possiamo utilizzare l'olio essenziale di menta piperita. in aromaterapia questo olio essenziale ha un effetto rinfrescante, di conseguenza ci dà subito un senso di refrigerio e poi la sua essenza comunque rende la nostra pelle un po' repellente per gli insetti. Se invece siamo stati pizzicati in modo più aggressivo e quindi la pelle si rigonfia, è arrossata e molto pruriginosa, allora è utile utilizzare l'Apis, che è un altro rimedio, sempre in granuli, che può essere assunto 3 granolini 2-3 volte al giorno, e questo ci permette di dare beneficio e sollievo alla nostra pelle. Soprattutto, dottor Temporin, Marco mi sgriderà perché l'ho interrotta, ma pazienza, soprattutto per le persone che hanno questa difficoltà, no, a farsi passare le punture. Le punture, insomma, lasciano il segno. Ci sono delle persone che si vedono che hanno proprio le gambe piene di pizzicature. È a queste che lei suggerisce questo rimedio? Rimedio? Assolutamente sì, e poi anche un altro piccolo rimedio veloce: tenere sempre in frigo del gel di aloe, che è un ottimo rinfrescante, lenitivo e antiarossante, e può essere applicato sulla zona ovviamente interessata con un immediato benessere refrigerio. Ripetiamo il rimedio per non farsi pizzicare, me lo stanno chiedendo al 349-238-6666, l'EDUM. L'EDUM palustre. L'EDUM palustre. Sì, e la diluizione poi va concordata con il proprio medico. Grazie, dottor Temporin, per essere stato con noi. Un saluto a tutti. Grazie, il dottor Temporin potete leggerlo naturalmente nel nostro Daily Lab, il laboratorio del benessere, che è sempre a vostra disposizione per, con i consigli dei nostri esperti. Abbiamo forse tempo per passare Massimo, che ci chiama da Roma, 800 24 00 24. Bonjour, Massimo. Sono in linea? Sì. In linea, buongiorno. In linea. Buongiorno a tutti, grazie. Volevo chiedere allo specialista, facendo colazione la mattina, il tintinnio del cucchiaino sulla tazzina del caffè mi provoca una vibrazione fastidiosa del timpano, credo, soltanto all'orecchio sinistro. E volevo chiedere se c'era un rimedio, una terapia alle cause, grazie. Veramente, Massimo, sembra una... è possibile? Dottor Dragonetti, certo che sì, le nostre orecchie ce ne dicono di tutti i colori, anche la vibrazione del cucchiaino. Sì, bisogna fare una piccola premessa: ogni orecchio ha la sua sensibilità. Sì. Quindi il signore, il disturbo del signore si chiama iperacusia. E purtroppo dico che difficilmente c'è rimedio. Bisogna abituarsi ed adattarsi. In questi casi io dico sempre però comunque fare 2 esami strumentali, un esame audiometrico, un esame impedenzometrico ed una visita, perché vengano esclusi dei fattori di tipo organico. Se il signore è affetto da iperacusia, mi spiace, ma non c'è molto da fare, però le consiglio subito di fare una visita con degli esami strumentali. E non mettere i tappi, perché sennò si allarga ancora di più, no, il tappo, suo anzi, condotto. E aumenta il rimbombo. E aumenta il rimbombo. No, io l'ho detto come battuta, ma ci ho preso, vero? Vuol dire che ho benissimo capito. Dottor Dragonetti, grazie per essere stato con grazie noi. Grazie a voi. Ci ha portato un po' in vacanza, ma ci ha fatto stare qua, ci ha vietato delle cose, ce ne ha permesse altre, ha confessato la sua passione per sentire la musica ad alto volume in cuffia, e devo salutarla comunque. Roberto Scaltritti, regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, grazie per essere stati con noi, come sempre vi aspetto domani, buona giornata.